Suppongo che non vi sia sfuggito il significato della breve e pretestuosa polemica che ha coinvolto per qualche ora il direttore generale della RAI e i presidenti dei due rami del Parlamento. Le due figure istituzionali che alle vicende dell'azienda televisiva di Stato non sono completamente strani, visto che una stranissima legge affida, chissà perché, loro il compito di nominarne il consiglio d'amministrazione. E che di fronte alla motivazione con cui il dottor Sacca di cui sopra aveva rifiutato la proposta di trasmettere in diretta la manifestazione di ieri a Roma, lo aveva fatto allegando lo scrupolo di non influenzare interferendovi il dibattito parlamentare, di fronte a quella motivazione non hanno potuto fare a meno di dichiarare che nelle loro assemblee per Bacco si lasciano influenzare da nessuno. I parlamentari, ha spiegato Casini, sono maggiorenni e vaccinati e non si fanno certo impressionare da una diretta TV nell'autonoma assunzione delle proprie responsabilità. E questo Parlamento, ha aggiunto più solennemente Pera, è libero e sovrano e certamente non si fa influenzare da nessuna trasmissione televisiva. Belle parole, accolte dai debiti applausi e complimenti, dopo le quali naturalmente la seconda e la terza carica dello Stato hanno consentito senza batter ciglio che la diretta in questione non si facesse affatto, come il governo probabilmente desiderava, gli interessi politici della maggioranza consigliavano, sicché se non ci avesse pensato la Sette che ci ha fatto pagare la diretta con le villanie di Ferrara e non ci avessero pensato soprattutto i nostri colleghi di Popolare Network, le immagini e i suoni di ieri la maggior parte dei cittadini avrebbero potuto al massimo immaginarseli. In questa specie di gioco delle parti è forse sfuggita ai vertici RAI e a quelli del Parlamento una verità piuttosto elementare. Nel cercare di influenzare un dibattito in corso non c'è, a rifletterci un poco, proprio nulla di male. Le manifestazioni di piazza si fanno proprio con lo scopo di influenzare le autorità e la classe dirigente, deputati e senatori compresi, nel senso di sottoporre loro, rendendovi appunto manifesti, certi dati sullo stato ideologico del paese e gli umori delle forze politiche, dati che non sempre e non necessariamente coincidono con il quadro cristallizzato dei rapporti elettorali. Il Parlamento, a sua volta, ha nonché l'interesse, il preciso dovere di lasciarsi influenzare, non perché debba far propria la volontà altrui, naturalmente, ma perché non può fare a meno di assumere, al fine di correttamente deliberare, tutte le informazioni possibili sull'effettiva volontà dei cittadini. E in fondo i parlamentari, ai sensi della Costituzione finora vigente, esercitano il loro ufficio senza vincolo di mandato, il che significa che sui problemi chiave, anche sugli altri, sono liberi di decidere come vogliono, al di là delle direttive del governo e dei desiderata dei leader dell'opposizione. E per decidere non cessanti hanno bisogno di avere ben presente il polso del paese. Ed è ovvio che l'affluenza nelle vie della capitale di un certo numero di centinaia, di migliaia di cittadini in manifestazione può essere da questo punto di vista un elemento di qualche interesse. Comunque è strano. La dirigenza della RAI avrebbe potuto, per declinare la proposta di trasmettere tutta la manifestazione in diretta, servirsi di altri e non implausibili ragionamenti. Avrebbe potuto far notare, per esempio, che da un punto di vista squisitamente tecnico e professionale, far vedere per 7-8 ore delle persone che sfilano è una palla pazzesca e che di ben altri strumenti, servizi, dibattiti, reportage, collegamenti volanti, chi più ne ha più ne metta, di ben altri strumenti dispone un giornalismo moderno per dar conto dello stato d'animo della nazione e illustrare con dovizia di particolari i dibattiti che vi ci svolgono. Avrebbe in questo modo evitato di offendere i leader delle due camere o di costringerli a far finta d'essere offesi, il che, considerando lo spessore bronzeo dell'epidermide di entrambi gli statisti, è più o meno la stessa cosa. Ma naturalmente questo avrebbe significato affrontare nel concreto il problema di fare del giornalismo e di fare dell'informazione, che, lo ammetterete, non sembra proprio una cosa su cui quei signori sembrino interessati. Forse la loro non è stata nemmeno una gaffe, perché quello di non ragionare in termini di informazione, che è una cosa seria, ma in termini di influenza e di interferenza, per loro è un riflesso condizionato, un portato inevitabile della cultura di cui sono nutriti. perché esista un'informazione è necessario che sui dati forniti dall'informatore l'informato possa liberamente riflettere, e una libertà di questo genere nel paese del berlusconismo trionfante non la si può proprio permettere. Il berlusconismo, a pensarci bene, è stato inventato proprio per questo.